Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, seconda puntata speciale di Essere e Avere. Abbiamo selezionato e aggiornato il meglio di quanto vi abbiamo fatto ascoltare finora in questa stagione. L'occasione per fare il punto, siamo alla fine dell'anno, tempo di bilanci e progetti per definizione sulle tendenze sulle quali scommettere per i prossimi mesi. Partiamo dalla tendenza antispreco, dal cibo all'acqua fino alle risorse energetiche, passando per tutti i beni di consumo. Complice la crisi e le istanze ambientaliste, non sprecare è diventato l'imperativo di questi tempi e la lotta allo spreco di cibo è diventata il simbolo delle scelte di consumo e di vita più eque, sostenibili a livello sociale e ambientale. La borsa della spesa. Noi siamo di East. Non ci importa quanto siate ricchi. Vogliamo che tutti i colpevoli provino su loro stessi l'orrore dei propri crimini. Mentiteci, vi mentiremo. Spiateci, vi spieremo. Avvelenateci, vi avveleneremo. Cominceremo la nostra opera di terrorismo globale attaccando nei prossimi 6 mesi 3 note multinazionali. E questo è solo l'inizio. Era The East, il trailer lo trovate sulla nostra pagina Facebook, Eco Thriller, uscito nelle sale l'estate scorsa, un giallo che mette insieme spionaggio, stili di vita e ambientalismo. Il lungometraggio nasce dalla storia vera dei due autori che nel 2009 hanno vissuto per 2 mesi all'interno di una comunità dedita al friganismo, lo stile di vita anticonsumistico basato sulla condivisione e sul recupero degli scarti, anche attraverso pratiche come il dumpster diving, tuffo nella spazzatura, la traduzione alla lettera. Un tema sicuramente delicato nelle sue derive estremistiche, non sono quelle che ci interessano in questa sede, quello che ci interessa è il messaggio di fondo del movimento Freegan. Lo spreco alimentare è una pratica ormai insostenibile. Ogni anno lo spreco domestico costa agli italiani 8,7 miliardi di euro, lo 0,5% del PIL, 28 euro al mese a famiglia per 5 tonnellate di cibo totali. Lo rivelano i dati 2013 dell'Osservatorio Nazionale sugli Sprechi, coordinato da Last Minute Market, società spin-off dell'Università di Bologna, che da anni porta avanti progetti per il recupero del cibo invenduto. La sensibilità dei consumatori inizia a cambiare, dice il suo fondatore Andrea Segre. Il tema oggi è molto sentito dai consumatori e questo forse anche deriva dal fatto che da alcuni anni che noi stiamo battendo e comunicando che il problema appunto c'è. In questo senso forse la crisi ci aiuta, perché parlare di sprechi in epoca di crisi sembra un controsenso. Dove bisogna intervenire? Dove lo spreco è maggiore nella filiera agroalimentare, cioè a casa nostra. E il fatto che venga fuori che in media ogni settimana una famiglia spreca in termini di cibo l'equivalente di 7 euro che finiscono nella spazzatura, moltiplicare questi euro per 52 settimane per il numero di famiglie ci fa arrivare a 8 miliardi di euro in valore, mezzo punto di PIL, e incomincia a essere una cifra importante quella che finisce nel bidone della spazzatura, ma poi non finisce lì, perché nel frattempo abbiamo prodotto quelli che diventano rifiuti con delle risorse limitate, cioè abbiamo consumato suolo, acqua, energia e più abbiamo poi dovuto smaltirle con un altro processo sia economico sia ecologico, nel senso che inquinare poi, cioè produrre rifiuti e smaltirli, ci costa dal punto di vista ambientale ed ecologico. È un sistema che non funziona così bene. Intanto dovremmo aumentare l'educazione, una volta si chiamava economia domestica, ma la sensibilità, il valore che diamo al cibo, a partire dalla scuola, quando i ragazzi arrivano all'università è troppo tardi, per poi intervenire anche sulle etichette che confondono molto, quel preferibilmente entro, fino ad arrivare ancora ad azioni più puntuali, cioè il comportamento di acquisto, non è che uno debba comprare cibo ogni giorno, però se va soltanto una volta alla settimana al supermercato, la qualità del cibo, l'ortofrutta che viene da filiere molto lunghe, refrigerate, poi si deperisce molto velocemente, quindi impariamo a fare la spesa, dedichiamo magari se possibile un po' più di tempo alla scelta dei prodotti, perché il rischio è che poi in frigo, altro strumento da conoscere meglio, marciscano. Tutto questo nonostante 6 famiglie su 10, ci dicono i dati Istat, abbiano ridotto le quantità di cibo acquistate a causa della crisi. Nell'ultimo anno, ci dicono altri dati che rendono ancora più insostenibile lo spreco, le famiglie che hanno chiesto aiuto per mangiare sono aumentate del 9%. Nel nostro paese sono quasi 4 milioni le persone assistite con pacchi alimentari e pasti gratuiti nelle mense. Anche nel settore della ristorazione 209.000 tonnellate di cibo all'anno vengono sprecate. Da 10 anni con il progetto City Cibo, la rete Banco Alimentare ne recupera il 10%. Il presidente della Fondazione Andrea Giussani. Questa cosa ha permesso di servire in tutti questi anni di attività. Come dato cumulato siamo arrivati a circa 3 milioni di porzioni, 2.000 tonnellate tra ortofrutta e pane dalle mense e circa 6.000 tonnellate dalla grande distribuzione organizzata. Noi siamo attrezzati a fare anche di più, avendo una rete che è presente in tutte le regioni italiane. Certamente per fare questo abbiamo bisogno da un lato di gente che doni, perché altrimenti noi non recuperiamo, e dall'altro di sostegni economici, perché questo è un recupero di alimenti piuttosto costoso. Camioncini, celle frigorifere, abbattitori di freddo e trasporti persone, per fortuna abbiamo i volontari. Noi siamo pronti a continuare così e molto di più. Secondo la FAO, a livello globale finiscono in discarica 1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile, pari ad un terzo del cibo prodotto nel mondo, circa 100 kg all'anno per consumatore in Europa e in Nord America. Tutto ciò a fronte di 850 milioni di persone che nel mondo soffrono ancora la fame. Però siamo tutti nella stessa pentola, ricorda provocatoriamente CISV con la campagna omonima che promuove scelte di alimentazione più consapevoli, sensibilizzando i consumatori sugli impatti che le loro scelte quotidiane di acquisto hanno sulla produzione degli alimenti nel resto del mondo. Il coordinatore della campagna, Franco Sburlati. Sappiamo che quello che succede per chi mangia in un certo modo, per chi si ciba in un certo modo, ha dei riflessi anche su altri che possono essere vicini o lontani, nei paesi del sud del mondo come nei paesi, nelle città, nelle periferie, qui in Italia. La nostra storia è di lavorare per aiutare popolazioni che sono in altre parti del mondo, in particolare in America Latina e in Africa. Ma proprio stando con loro in questi 50 anni, da quando esistiamo e operiamo, abbiamo imparato da loro che se sappiamo sfruttare, utilizzare le nostre sapienze più antiche, i nostri modi di vivere più vecchi, riusciamo a vivere meglio. Il termine, il concetto di sovranità alimentare arriva dai contadini, non nemmeno gli agricoltori, proprio dai movimenti contadini di Latino America, ed è diventato una conoscenza globale. Per noi che cosa può voler dire? Può voler dire proprio scegliere che cosa mangiare, non correre dietro le mode, mangiare sano, mangiare onestamente, ricordarci che perché siano giuste le cose che scegliamo di mangiare devono riconoscere il giusto valore a chi le produce, ma allo stesso tempo la solidarietà nei confronti di chi le consuma. Ci sono giorni che chi ce la fa più, sei raso terra con gli occhi all'insù, vuoi rottamare presente e passato, telefonare al mondo e darti ammalato, poi ti guardi allo specchio e ti dai del deficiente, perché lo sai che della vita non si butta via niente. In questo scenario c'è anche chi trova nei rifiuti una straordinaria chiave di lettura della società. Con tutto e monnezza, Antonio Castagna ha voluto scrivere una guida alternativa e divertente al riciclo. Utile, scrive l'autore, a chi voglia ricostruire il proprio catalogo affettivo di azioni ecocompatibili con la ricerca del vero sé. Perché prima o poi tutto diventa monnezza. E io volevo cominciare da quest'esito, dalla fine che fanno le cose, perché mi pare che non le guardiamo abbastanza. Per lei i rifiuti sono quasi un'ossessione? Sì, è un'ossessione perché ho cominciato a guardare ogni cosa che mi circonda come se fossero rifiuti. Non ci avevo mai pensato, in effetti, e forse ognuno di noi fa fatica a pensarlo da quel punto di vista. Ma quando cominci a guardare tutto come rifiuti, poi diventa interessantissimo scoprire che fine fanno, come le persone trattano gli oggetti a fine vita, e allora poi mi scopro a osservare i comportamenti delle persone intorno a me, e diventa una passione quasi. Lei scrive: il modello per l'uomo dovrebbe essere il lombrico. È un modello impossibile il lombrico, perché il lombrico mangia, digerisce, quello che produce è terriccio fertile. Però questo può valere per il lombrico che non ha altre idee per la testa, diciamo. Questo è un modello impossibile. Lo uso perché è un orizzonte interessante, lo uso perché sembra, quando si parla dei problemi, dei rifiuti, eccetera, che la cosa più desiderabile sia tornare in un equilibrio perfetto con la natura, però l'essere umano ha come caratteristica proprio quello di essere squilibrato, e allora questo ci mette un po' in difficoltà. Il suo libro ha una matrice mista, è un racconto, è un saggio, diventa anche una guida di fatto. Non volevo fare una guida, però mi rendo conto che se cominci a guardare tutto dal lato dei rifiuti, magari ti viene fuori l'angoscia, adesso come si fa, come facciamo, e dobbiamo essere più virtuosi. Io non sopporto molto le categorie moralistiche applicate a questo tipo di questioni, che sono questioni molto pratiche. Volevo chiudere però il libro con degli elementi anche positivi e suggerire un atteggiamento che non è tanto quello moralistico quanto quello di esplorazione, nel senso che molti comportamenti, anche molto semplici, non è che uno li deve applicare perché sono virtuosi e fanno bene alla natura, ma perché sono belli. Quindi andare dal fruttivendolo, dal contadino sotto casa a comprare certi prodotti senza produrre packaging, plastiche, eccetera, non è solo virtuoso dal punto di vista ambientale, ma può darti l'occasione di esplorare e di scoprire delle cose che non conoscevi prima, per esempio dei tipi di mele, dei tipi di pere che noi non vediamo mai nel supermercato perché vediamo sempre solo due o tre tipi, oppure le albicocche bianche che cito nel libro, o il sedano rapa, che per me è stata una scoperta assoluta e non conoscevo. I comportamenti virtuosi, lei scrive, nascono appunto dalla conoscenza innanzitutto dei rifiuti, dal fatto di osservarli. Guardare il rifiuto è fare uno sforzo di conoscenza in più. A me ha colpito molto intervistare delle persone ambientaliste che si oppongono all'inceneritore e poi chiedere loro: ma voi ogni quanto cambiate il vostro computer? E lo cambiano esattamente come noi, ogni 2 o 3 anni. Solo che non pensavano al loro computer come qualcosa che avesse un ciclo dopo la fine della vita, e quindi ragionavano sui rifiuti solidi urbani, che sono in effetti un problema, l'umido, la plastica, il vetro, eccetera, ma non riflettevano su tutta una serie di altri oggetti, i telefonini, le automobili di cui quotidianamente ci serviamo. E allora guardare, cercare di osservare tutto il mondo intorno a noi come qualcosa che prima o poi ha un ciclo di vita, quindi ha un momento in cui ci serve, un momento in cui non ci serve più, in cui dovremmo disfarci, e cercare di capire quali sono i processi che caratterizzano gli oggetti, secondo me è un buon modo per superare un po' anche l'ansia di confrontarsi con questi temi. Se comincio a osservare tutto dalla fine, comincio a pensare che c'è un nesso tra la difficoltà a guardare la fine degli oggetti e la difficoltà a guardare la fine di qualsiasi ciclo, compreso quello della propria vita. È un modo per ridar valore alle cose, agli oggetti, a ciò che ci circonda, e anche rimettere al giusto posto una serie di questioni. Devo dire che per me scriverlo ha avuto anche molto questo valore di liberarmi dall'ossessione dei rifiuti, dal fatto di vederli per forza come un problema, e anche ridare un po' il giusto valore alle azioni concrete che faccio poi nella mia vita, che le faccio da solo come consumatore o insieme ad altri, nel tentativo di mettere su delle azioni che abbiano questa caratteristica, insomma, di ridurre i rifiuti, di far circolare più le merci, di farle vivere più a lungo e così via. Mi sento molto più sereno dopo averlo scritto. Spero sia la stessa cosa per chi lo legge.

Food, questo il terzo progetto italiano, è una startup che trasforma il cibo invenduto in street food. Giulia Del Bosco e Francesca Coffini. Noi ci siamo concentrati sullo spreco alimentare nelle piccole attività di ristorazione, i bar, le bakery, le rosticcerie, le pasticcerie, con un servizio che prevede, attraverso il ritiro, l'impacchettamento con un packaging creativo e una campagna sociale di comunicazione, di rivendere gli alimenti che sono invenduti da queste realtà di piccola ristorazione attraverso lo street food, quindi andando incontro a quelli che sono i nostri utenti. E ReFood conviene a tutti, conviene al barista perché al barista vengono pagati i cosiddetti avanzi a fine giornata o a metà della giornata a seconda di quello che è il prodotto che consegna al ReFood, è una garanzia di freschezza, perché un bar che ha aderito a ReFood è un bar che ti vende sempre prodotti freschi. ReFood conviene all'ambiente perché tutto il packaging e i mezzi sono interamente ecosostenibili, e conviene ai consumatori perché ReFood rivende al 50%, perché è giusto che nel momento in cui tu consumi un prodotto non fresco più al 100%, però comunque che è ancora assolutamente buono, è giusto che tu abbia uno sconto. Noi abbiamo pensato ad un partenariato pubblico-privato, a un settore privato che per esempio ci può fornire i cosiddetti assets grants, ossia dal veicolo all'elettricità. Abbiamo pensato ad un approccio che non chiederebbe sostegno finanziario al settore pubblico, ma un appoggio in termini di, non so, patrocinio piuttosto che autorizzazioni, insomma visibilità. Benvenuti nella cucina di MasterChef. Intanto vedo che la salsa è separata, un po' molto salata anche. Per fortuna che hai fatto lo spritz. Il calamaro fa un po' schifo. Sì, no, ma mi ha reso l'idea. Credo che questo sia davvero uno dei piatti più tristi che ho mangiato nella mia vita. Il piatto è una merda totale. Per me no. Forse è meglio che tu non cucini più. Fai un'altra cosa. Anche una trasmissione cult come MasterChef quest'anno è diventata antispreco grazie ad un accordo proprio con Last Minute Market. 2 tonnellate di alimenti avanzati dalla competizione sono stati consegnati nel corso delle registrazioni all'Opera Cardinal Ferrari di Milano, che assiste poveri ed emarginati nel capoluogo lombardo. 2.000 kg di cibo, che corrispondono a 4 cassonetti di rifiuti evitati, oppure a 3.900 pizze, 48 viaggi in auto Milano-Napoli, 6.244 kg di CO2 non emessa. Un segnale anche questo di una cultura della sostenibilità che va sempre più diffondendosi e che passa dalle abitudini quotidiane. Molti consumatori, ci dice una ricerca condotta da LifeGate sulla propria community di riferimento, sono pronti a cambiare opinione sulle aziende. I consumatori consapevoli non vogliono più solo prodotti sostenibili, ma anche aziende sostenibili, ci ha detto Enea Roveda, direttore marketing della piattaforma. Ci sono in pratica 2 target interessate a queste tematiche, che sono da una parte quelli che noi chiamiamo i giovani istruiti tecnologici, dall'altra parte ci sono gli adulti responsabili e idealisti. Quindi un target molto trasversale che però è accomunato da una grande attenzione ai temi sociali e ambientali, quindi di rispetto e di sostenibilità. Su quali comportamenti di acquisto o di vita si incrociano? Si incrociano sicuramente su quello che sono le richieste verso le aziende, cioè la maggior parte di queste persone cercano soprattutto un'attenzione dal punto di vista dell'azienda in quello che è il rispetto sociale e ambientale nell'operato proprio stesso dell'azienda, mentre fino a un po' di anni fa veniva chiesto molto di più un prodotto sostenibile, adesso oltre al prodotto si chiede proprio un'azienda sostenibile. La cosa più bella è che da questa indagine viene fuori che oltre l'88% delle persone, sia tra i giovani sia tra gli adulti, chiede proprio responsabilità sostenibile dell'azienda. Quindi è fondamentale il tema della reputazione aziendale. Sicuramente, reputazione e anche trasparenza. Entrambi i target chiedono, per l'80% delle persone, vogliono delle aziende trasparenti e che siano coerenti con quello che vanno a comunicare. Lo zoccolo duro del consumatore consapevole è donna, questo è un altro dato che emerge dalla vostra ricerca. Sì, è donna ed è, questo è trasversale, sia sui giovani sia sugli adulti non cambia la percentuale. Le donne sono sicuramente più attente ai temi di sostenibilità per tanti motivi, nel senso che la donna è sempre stata quella che è tuttora quella che si occupa di più della sostenibilità familiare, quella che pensa di più, se vogliamo, a un futuro e ai nostri figli. Un 60% donne e un 40% uomini. Andando nel dettaglio delle pratiche, che cosa chiedono i consumatori a un'azienda consapevole? Che cosa deve fare? Chiedono efficienza, riduzione degli sprechi, chiedono l'utilizzo di energie rinnovabili. Questo per oltre 70-73% delle persone sono temi molto rilevanti. Chiedono il più possibile una riduzione di quella che è la filiera della produzione, quindi vorrebbero una maggior concentrazione di prodotti made in Italy, realmente made in Italy, quindi con una filiera controllata, con una filiera molto breve, e questo per un 76% delle persone è molto importante, e sono non meno importanti quelli che sono gli aspetti di emissioni delle CO2, quindi ridurre il più possibile le emissioni di CO2 e anche quelli che sono gli impatti diretti sulle persone, quindi su anche i dipendenti, i collaboratori dell'azienda stessa e anche delle comunità locali dove l'azienda lavora. Qui addirittura un 75% delle persone ci dice che per loro questo è molto importante. È un consumatore disposto a spendere di più per avere dei prodotti che rispettino questi parametri? Su questo ci sono, non solamente in questa, nella nostra ricerca che è molto verticale su una community molto targetizzata sui temi di sostenibilità, ma ci sono tantissime ricerche che danno che negli ultimi anni, nonostante la crisi, c'è un grande target che è circa un 30% della popolazione italiana che è comunque disposta ed è interessata alle tematiche di rispetto sociale e ambientale in fase di acquisto di un prodotto. E questo è una cosa molto bella e che si ritrova per esempio in alcuni settori. Se pensiamo ad esempio all'agroalimentare, vediamo il mondo del biologico, dell'alimentazione biologica, che nonostante la crisi in questi ultimi anni è cresciuta a due cifre. E finisce qui anche la seconda delle nostre puntate speciali. Sabato prossimo chiuderemo il ciclo sulle tendenze simbolo nel panorama dei consumi. Sono i segnali di un futuro tutto all'insegna del cambiamento. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.